Amen, amen. Batti 5 alla persona che ti sta a fianco e digli: tu sei straordinario. Tu sei straordinaria, nel caso in cui... Wow, bellissimo. Quanti hanno sentito il detto: se nasci tondo, muori tondo. Se nasci quadrato, niente di più sbagliato. Amen? La parola di Dio ci dà promessa che se noi nasciamo quadrati, possiamo diventare tondi. Abbiamo la libertà di essere obesi su questa terra. Belli, tondi. A tutti i tondi in mezzo a noi, questo messaggio è per te, per darti consolazione questa sera, che il Signore è dalla tua parte. Anche se ti ha fatto quadrato e poi tu sei diventato tondo, Lui ti ama lo stesso. Vabbè, non è che lo dovete dire alla persona che è tonda, perché diventa offensivo. Abbiamo sentito diversi messaggi oramai a partire da quest'anno, e non solo a partire da quest'anno, in realtà già a partire dall'anno scorso, di quanto il Signore sta invitando ciascuno di noi a realizzare che la parola di Dio chiama noi, quali credenti, cristiani, discepoli suoi, a camminare. E non solo a camminare, la parola di Dio ci invita a correre, perché noi siamo chiamati ad essere dei conquistatori, in quanto noi seguiamo il conquistatore per eccellenza. Ed essendo discepoli di colui che ha conquistato ogni cosa, noi abbiamo il potere, abbiamo il diritto e la possibilità su questa terra, a nostra volta, di conquistare, di procedere, andare avanti, mettere passo davanti ad altro passo e andare avanti in territori nuovi. E il Signore ti sta chiamando a vivere delle vittorie nuove per la tua vita, non vittorie vecchie, non conquiste che hai già ottenuto nel tuo passato, ma conquiste nuove. Ci sono paesaggi inesplorati che il Signore ha prestabilito che tu schiacci con i tuoi piedi e di cui ti prendi il diritto e il possesso e di cui gioisci, perché la benedizione di Dio è per la tua vita, è per questi territori che Lui ha per te. Amen? Ed è bello venire qui la domenica e caricarci con questi messaggi e sapere che il Signore ha delle nuove conquiste per noi, cantare questi bellissimi canti, attestare e proclamare con la Chiesa tutta che Lui è Dio, che in Lui ogni cosa è possibile, però inevitabilmente lo sappiamo tutti benissimo che dopo la domenica viene il fatidico lunedì. E per quanto tu sei carico e ti senti un leone la domenica sera e torni a casa e guardi tua moglie, no? Vito sta guardando adesso sua moglie, no? Vai a casa e dici: domani io conquisterò il mondo. Io domani conquisterò la mia classe a scuola, io domani sarò sale e luce, io stravolgerò questa nazione. Ti alzi la lunedì mattina e già tutto parte storto perché hai dormito poco e malissimo. Versi la tazza del caffè e tua moglie ti riprende. Vai al lavoro e la prima cosa che ti capita è che al posto di andare tu ad essere una testimonianza, quel compagno di classe non perde occasione di condividere con te l'ultima barzelletta, la più sporca che tu abbia mai sentito, e quella comincia a frullare nella tua testa. Torni a casa, entri in macchina e ti rendi conto che hai l'assicurazione da pagare, non solo. Vedi che c'è quel bollino sul parabrezze che ti ricorda anche che la revisione va rifatta. Perché non so se capita anche a te, ma quando c'è qualcosa da pagare, c'è sempre qualcos'altro anche da pagare. E poi qualcos'altro ancora. Perché le bollette, stranamente, c'è qualcosa di soprannaturale, arrivano tutte insieme, tutte nella stessa settimana, tutte esattamente in quello stesso lunedì che eri pronto, eri carico e stavi facendo un'avanzata francese e ti ritrovi a fare una ritirata spagnola o viceversa. ci alziamo lunedì mattina, ci sentiamo dei leoni per finire poi lunedì sera ad essere dei cani bastonati. Ci buttiamo sul nostro divano e incominciamo a guardare la televisione, a alimentarci di ogni spazzatura. Ci siamo dimenticati che avevamo il corso di consolidamento 2, non ci andiamo e realizziamo che non abbiamo ancora pregato, non abbiamo letto la Bibbia e non solo la nostra vita, al posto di non essere straordinaria, diventa assolutamente ordinaria e con l'aggravante che essendo credente cristiano tu ti senti un fallito perché anche come credente cristiano stai fallendo tutto nella tua vita. E la parola di Dio è meravigliosa perché ci presenta anche questo aspetto della vita del credente. È l'Apostolo Paolo che descrive il suo lunedì mattina. E lo troviamo in Romani, al capitolo 7, un capitolo che probabilmente tu conosci molto bene, e vogliamo leggerlo insieme dal verso 14, che cosa l'Apostolo Paolo dice. Dal verso 14 dice: «Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, ammetto che la legge è buona. Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere». Ma il modo di compiere il bene no. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti io mi compiaccio nella legge di Dio. Secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato, che è nelle mie membra, me infelice. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Vedete quanto l'Apostolo Paolo arriva a disperarsi perché si rende conto che quello che vorrebbe fare non fa e quello che non vorrebbe fare quello si ritrova a fare. E questo è molto spesso vero per ciascuno di noi. È come se siamo una boccia da bowling. Non so quanti sono andati a giocare a bowling, io diverse volte, e nella comitiva c'è sempre quella ragazza che lancia la palla con la mano un po' moscia, no? Fioca. La palla comincia a ruotare, e però è proprio che è svogliata, cioè sta palla dice un po' più forte, ti potevi sforzare a lanciarmi, no? E con il peso comincia a deviare e finisce inevitabilmente in quel canale al lato della pista e manca l'obiettivo. E a volte siamo così anche noi. E un fatto certo, che venire qui in chiesa la domenica non ci dà quella forza necessaria per andare avanti per tutta la settimana e fare strike e buttar giù quei birilli. È un fatto certo che per quanto tu possa vivere qui questa sera la presenza di Dio e quanto tu possa essere incoraggiato dal bellissimo messaggio che il pastore, perché inevitabilmente il pastore porta un bellissimo messaggio, sempre, puntualmente, ogni domenica, e qui ci sta pure un applauso, giusto per... Grazie che spontaneamente... Vi elogiate in questa maniera, no? Per quanto il pastore possa portare un bellissimo messaggio, questo dà una forza a quella boccia e che comincia a ruotare della tua vita, ma inevitabilmente viene il lunedì, e poi viene il martedì, e poi viene il mercoledì, e quello che non vuoi fare, quello ti ritrovi a fare. Quello che invece volevi fare, che hai ascoltato la domenica, quella vita meravigliosa, straordinaria, descritta dalla parola di Dio, predicata dal pastore, quella vita non riesci a viverla. Proprio quel peccato di rabbia che cerchi di mantenere, esplode in famiglia, con la persona che più ami. Quei pensieri carnali, quei pensieri impuri. Quando sei solo, il tuo bere un primo bicchiere di vino, un secondo bicchiere di vino e un terzo bicchiere di vino perché nessuno ti vede. E nessuno ti vede quando sei davanti a quel computer in internet e puoi guardare quei video e cliccare su quelle pagine. E inevitabilmente ti ritrovi magari a parlare con un fratello, con una sorella, con un vicino di casa e a sputare, vomitare magari tutta la tua amarezza. Vorresti essere un testimone di Dio, vorresti parlare delle cose belle di Dio, ma ti ritrovi ad essere una persona così amareggiata e piena di critica che alla prima occasione vomita parole di morte e vorresti morderti le labbra e tagliarti la lingua e ti ritrovi a dire me infelice, miserabile. E io questa sera voglio ricordarti, sei un miserabile. Dillo alla persona che sta a fianco, con tutto il cuore, sei un miserabile. Vedo che lo dite con tutto il cuore, un po' troppo. Però per quanto sia vero che realizzare come credenti, come cristiani, realizzare che dentro di noi c'è una legge che è la legge del peccato, è qualcosa che ci mortifica, ci rattrista, ci amareggia, quell'amarezza ha dei versi contati e sono esattamente 10. E poco prima, se tu vai a leggere il capitolo 6 di Romani, è fantastico perché parla della grazia di Dio che ci libera e ci rende vittoriosi. Ancora di più, i versi che vengono dopo, i 40 versi dopo, parlano della possibilità che io e tu abbiamo di poter vivere una vita non da miserabili, perché l'Apostolo Paolo non si ferma a questa espressione me infelice, me miserabile nella condizione che mi trovo, ma va avanti, descrivendo quella che è una vita vittoriosa alla quale io e tu siamo destinati, perché tu sei destinato a vivere su questa terra una vita straordinaria, eccezionale, incredibilmente bella e incredibilmente miracolosa. Tu sei chiamato a fare la differenza e a vivere nel soprannaturale per il bene tuo, della tua famiglia e delle persone alle quali Dio ti ha chiamato. Tu non devi e non potrai, per mezzo dello Spirito Santo, come andremo a vedere questa sera, rimanere in una condizione di tristezza, di abbattimento, dove la legge del peccato trionfa su di te. Perché c'è un'altra legge, come vedremo, che trionfa sulla legge del peccato. Il tutto viene interrotto. Il tutto viene interrotto. Qua l'Apostolo Paolo, esattamente dopo aver esclamato, versetto 24, me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Versetto 25 dice, grazie. Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. E tu lo leggi e dici, ma questo Paolo è uno schizofrenico, ha dei problemi psicologici, cioè prima dice me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte e poi aggiunge grazie, grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Perché fa questo? Perché lui stesso si rende conto che per mezzo di Gesù Cristo ha la possibilità di uscire fuori da quella condizione. Oh, la mia preghiera questa sera è che tu, per mezzo di Gesù Cristo, possa realizzare che non sei destinato a rimanere in quella condizione miserabile e infelice. Tu questa sera hai motivo di esclamare grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo. E poi fa il riassunto, versetto 26, e dice, sempre 25, dice così: dunque io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Ma poi va avanti in quello che è probabilmente, anzi quasi certamente, uno dei capitoli più belli di tutta la parola di Dio. Se posso incoraggiarti a leggere e rileggere un capitolo della Bibbia, allora ti incoraggio a leggere e rileggere Romani 8. È un condensato di gloria, è un condensato che parla di tutto quello che ti spetta, non per un diritto tuo, ma in Cristo Gesù, e la possibilità che hai di vivere una vita vittoriosa. Vogliamo leggere insieme, non tutto l'intero capitolo, ma alcuni versi, e voglio soffermarmi su quelle che sono alcune chiavi che io sono convinto permetteranno a te di vivere il lunedì in una maniera diversa, il martedì in una maniera diversa, e in men che non si dica, tu potrai guardarti indietro e dire: la mia vita è straordinaria, è incredibilmente straordinaria. L'Apostolo Paolo va avanti e dice: non c'è dunque nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo, e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello spirito, se lo spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui, ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne voi morirete, ma se mediante lo spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo spirito di Dio sono figli di Dio, e voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo: Abba, Padre. Lo spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Non è meraviglioso? Non vi sembra che una piccola parolina sia particolarmente ripetuta in questi versi? Per 16 versi che io ho letto, 16 volte noi leggiamo dello Spirito, lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, lo Spirito che ha risorto Cristo Gesù, lo Spirito che abita in voi, lo Spirito che attesta. È incredibile vedere che in Romani 7 neanche una volta viene menzionato lo Spirito Santo, ma in Romani 8 lo Spirito Santo viene continuamente ripetuto per 16 versi, 16 volte. Ed è incalzante il numero delle ripetizioni che viene offerto dalla parola di Dio sullo Spirito Santo. Io credo che il Signore sta trasmettendo qualcosa di molto chiaro. E se anche questa sera, perché questa sera certamente non avremo modo di andare ad analizzare ogni singolo verso che abbiamo letto, però se c'è qualcosa che così a prima vista già possiamo realizzare, è che una vita straordinaria, una vita che non è da miserabili, una vita non infelice, una vita che non è sottomessa e dominata dalla legge del peccato, è una vita che è caratterizzata dallo Spirito di Dio. Ci sono due rivelazioni che io vorrei che noi questa sera accogliessimo. Tu puoi vivere una vita straordinaria attraverso queste due semplici rivelazioni. La prima la troviamo in Romani 8:1, che dice: non c'è dunque più nessuna, ripeto, non c'è dunque più nessuna condanna. Fratelli, sorelle, questa è una rivelazione che rivoluziona la tua vita. Nel momento in cui tu realizzi: io non sono più sotto condanna, Io non sono più sotto giudizio. Il mio prezzo, il prezzo del mio peccato è stato già pagato. Tu lì cominci a vivere una vita vittoriosa. Nel momento in cui tu realizzi che è vero, sei peccatore, è vero, dentro di te continua a dominare una legge del peccato, perché fratelli e sorelle, i versi che abbiamo letto nel capitolo 7 non sono riferiti a una persona che non è credente, a una persona che non ama Dio. È l'Apostolo Paolo che parla in prima persona al tempo presente. E l'Apostolo Paolo, parlando in prima persona al tempo presente, dice che si diletta, che ha amore per la legge di Dio. Una persona che non ama il Signore non ha amore, non brama la legge di Dio. Quindi l'Apostolo Paolo sta dicendo: io desidero la legge di Dio, io desidero i comandamenti di Dio, io voglio amare sempre, io voglio perdonare, io voglio essere una testimonianza, io voglio vivere nella luce, io non voglio desiderare le cose carnali, io non voglio l'impurità nella mia vita, io desidero tutto questo. Ed è l'Apostolo Paolo che dice: quello che voglio fare, cioè io voglio seguire la legge di Dio, quello io non lo faccio. E quello che non voglio fare, cioè peccare, mancare di perdono, mormorare, criticare, non mettere Dio al primo posto nella mia vita, quello mi ritrovo a fare. Ma è lo stesso Apostolo Paolo che dice, a un certo punto tutto cambia, grazie a Dio siano rese per mezzo di Gesù Cristo. Perché? Perché non c'è più nessuna condanna. Nessuno più può venire nella mia vita, che sia il diavolo in persona, demoni o persone, non c'è nessuno che può venire, puntarmi il dito e dire: tu sei un peccatore destinato all'inferno, perché io ho la possibilità di tirar fuori Romani 8:1 e ricordare a quel qualcuno che io sono graziato, che io sono salvato, non per i miei meriti, non per le mie capacità, non per le mie opere buone, ma sono salvato per i meriti di Cristo Gesù, per le sue opere buone, perché lui ha camminato su questa terra e ha vissuto quella vita perfetta che io non posso vivere, e nella sua vita perfetta ha preso ogni singolo peccato mio, presente, passato o futuro che sia, e su quella croce non c'è più nessuna condanna sulla mia vita. Io appartengo a Cristo Gesù. E poi aggiunge nel capitolo 8: nessuno può separarmi dall'amore di Cristo. Nessuno può separarmi dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. Tu sei amato, tu sei comprato. E non so con quale peccato sei venuto questa sera, però amico, amica, ho una bella notizia per te. Qualsiasi sia il peccato, per quanto sporco e pesante e buio e profondo esso sia, in Cristo Gesù non c'è più nessuna condanna. Tu sei perdonato, tu sei salvato. Quale occasione migliore per celebrare la cena del Signore questa sera? Quale occasione migliore per venire qui avanti più tardi e prendere quel pane e prendere quel vino e ricordarci: e per la sua carne crocifissa, torturata su quella croce, ed è per il suo sangue versato per me che io sono libero, e libero per l'eternità, e io sono salvo, e salvo per l'eternità. Via la religione, via le opere buone, via il perbenismo, via gli sforzi personali, via l'autodisciplina, via ogni tentativo nostro di riuscire a meritarci qualcosa che non riusciremmo mai a meritare con i nostri sforzi. Via tutto questo, perché Romani 8:1 dice: non c'è più nessuna condanna per te. La seconda rivelazione che questi versi ci mostrano è che la legge dello Spirito Santo è più forte e più potente della legge del peccato che domina dentro di te. La legge dello Spirito Santo è la rivelazione più importante che noi questa sera possiamo cogliere. Per piacere, presta attenzione a queste parole, perché se tu vuoi vivere una vita dove riesci a fare quello che vuoi fare e non fare quello che non vuoi fare, l'ago della bilancia è tutto sul peso della presenza dello Spirito Santo nella tua vita. Non è nei tuoi sforzi, non è nella tua potenza, non è nella tua autorità. c'è un'autorità più superiore che ti permette di vivere quella vita straordinaria. E non sei tu. Posso aprire una parentesi per i fratelli in mezzo a noi, gli uomini. Io che sono uomo con voi. Noi ci sentiamo così forti a volte. E a volte anche le circostanze della nostra vita, l'essere marito, l'essere padre, l'essere un capo famiglia, mette un peso sulle nostre spalle, che crea una deformazione in noi, dove noi crediamo di dovercela fare sempre, comunque e in ogni occasione, con le nostre forze. Siamo noi che dobbiamo decidere, siamo noi che dobbiamo prendere una posizione, siamo noi che dobbiamo essere forti, siamo noi che dobbiamo reggere il peso, siamo noi, noi, noi. E l'Apostolo Paolo dice: no, la potenza non è in te, la potenza non è nella tua autodisciplina, la potenza non è in quanto alzi la voce o sbatti il pugno su un tavolo, la potenza di un vero uomo di Dio sta nella sua umiltà di riconoscere che non ha potenza. La potenza di un vero uomo di Dio sta nel riconoscere che lui non può nulla, che non può guidare bene una famiglia, che non può essere un buon marito, che non può portare avanti perfettamente, secondo il piano di Dio, quello che lui vuole realizzare attraverso di lui nelle persone che lo circondano. La potenza tua, la potenza mia, fratello, è nello Spirito Santo. Ed è la sua guida che noi dobbiamo desiderare. La legge dello Spirito è quella potenza che permette a quella boccia di continuare a rotolare e ad acquisire potenza sulla pista, a non cadere sui solchi, a non cadere su quei canali che possono essere nella tua vita quei peccati soliti che vivi, nei quali ti rifugi quando ti senti debole. Quando è arrivato il mercoledì sera, tu puoi rotolare con forza e con vigore verso quelle biglie per buttarle giù nella potenza che si rinnova in te attraverso lo Spirito Santo. Questa è la rivelazione più importante che tu puoi prendere questa sera. E posso dirti, fratello, sorella che sia, ragazzi, tu sei chiamato a vivere una vita straordinaria. E Dio vuole fare di te una persona straordinaria. Ma per poterlo fare ha bisogno di trovare una persona in ginocchio. Ha bisogno di trovare una persona che riconosce la forza, la potenza non è in me stesso. È nello Spirito Santo. Sii guidato dallo Spirito Santo. Sii riempito dallo Spirito Santo. Sii motivato dallo Spirito Santo. Si potenziato, si equipaggiato dallo Spirito Santo. E puoi dire questa sera: ma pastore, come si fa? Come si fa? Ed è molto più semplice. Noi tendiamo a complicare le cose, tendiamo a complicare la parola di Dio. È molto più semplice. Parte tutto dal volerlo, parte tutto dal desiderarlo. Se vedete Gesù come parla dello Spirito Santo nel Vangelo di Giovanni e poi anche le prime parole che leggiamo negli Atti degli Apostoli, tutto quello che fa è creare un'aspettativa nei discepoli. Se io non vado, non verrà a voi il Consolatore. Viene uno dopo di me che vi consolerà, che vi potenzierà. In Atti dice: attendete, attendete la promessa. Perché quando la promessa arriverà avrete potenza e allora mi sarete testimoni. E nei discepoli è nata un'aspettativa, un desiderio di comprendere, di capire. E se tu mi chiedi questa sera chi è lo Spirito Santo, com'è lo Spirito Santo, io non te lo so dire. Ma una cosa so, che ama manifestarsi quando ci sono persone che bramano e desiderano la sua presenza, quando ci sono persone che si inginocchiano e pregano e intercedono e chiedono il suo intervento e la sua discesa. Dopo diversi giorni quello Spirito Santo è sceso nei discepoli e la storia non è stata più la stessa. La storia della tua vita non sarà più la stessa se sarai disposto a inginocchiarti e a bramare, a non fermarti al primo tentativo, ma a continuare a bramare, a ricercare la guida dello Spirito Santo. fatti guidare da Lui. Stamattina il Signore metteva nel cuore mio una parola, e credo che lo stesso valga per le persone che sono qui davanti a me ora e chiunque mi sta ascoltando. E questa parola diceva: tu ti ritrovi oggi in territori che portano in te rammarico, perché non sono territori nei quali ti vorresti ritrovare. Non sono territori che hai scelto. Non sono territori che ti piacciono. Questo può valere per sentimenti che hai nel cuore. Probabilmente ti sono accadute, sei stato trascinato da circostanze davvero brutte. E oggi ti ritrovi in questo territorio buio, in questo territorio di morte. E il motivo per il quale ti trovi dove ti trovi è perché hai scelto quello che hai scelto. Hai fatto dei passi, hai preso delle decisioni e l'hai fatto autonomamente. E il Signore era molto diretto questa mattina e credo che lo voglia essere anche questa sera. Nel dire: tu hai scelto per te stesso, tu non mi hai coinvolto. E nello scegliere per te stesso, autonomamente, facendo quella decisione e poi quell'altra decisione, hai preso un percorso, hai fatto una strada e sei arrivato in un territorio che io non avevo prestabilito per te. Però c'è speranza. Il Signore questa sera ti dice: tu puoi riprendere il cammino e puoi tornare indietro. Anzi, puoi fare dei salti che sono delle scorciatoie che io ho in mente per te. Tutto quello che devi fare a partire da oggi è coinvolgere lo Spirito Santo nella tua vita. Io credo che il Signore vuole insegnare a noi, fratelli e sorelle, la capacità di dire più no. Più no. Al posto di alzarci la mattina, la prima proposta, dire sì. Questa decisione, sì. Questa cosa mi entusiasma, sì. Il Signore ci sta chiamando, quale popolo suo, a dire: ok, Spirito Santo, tu che dici? Tu che vuoi? Tu cosa faresti? E io credo che in molte occasioni la risposta sarà no. No. E non di là. Per quanto bello, per quanto magari non è neanche un peccato, ma è no, perché io ho un altro territorio per te, perché io ho un'altra direzione per te. Come dice la parola di Dio, non confidare nel tuo intendimento, non confidare nella tua intelligenza, non confidare nella tua capacità di scegliere. E adesso sto predicando a me stesso. So essere una persona molto decisa, molto chiara, molto determinata. E quando mi trovo davanti a un bivio, mai, quasi mai, dico: ok, fermiamoci. No, non ti do una risposta. Ho sempre una risposta, ho sempre una decisione che voglio prendere. E se sono indeciso, mi convinco di essere deciso comunque. E lo Spirito Santo dice: no, io voglio che tu ti fermi. Io voglio che tu mi coinvolgi. E che dici sì dove io dico sì, e dici no dove io dico no, perché io ho dei territori nei quali ti voglio portare. Qual è il tuo no? Qual è il tuo sì? La risposta non sta in te stesso, la risposta sta nello Spirito Santo. Ed è la sua legge che domina la legge del peccato che è dentro di te. Ed è la sua legge, la sua potenza che ti permette di vivere quella vita straordinaria e vittoriosa. Come essere guidati dallo Spirito Santo? Desideralo, ricevilo, coinvolgilo, ascoltalo. Quando? Dovunque, in ogni modo. Stamattina condividevo il fatto che io ho un mio modo, la mia macchina è il mio posto. È qualcosa che il Signore mi ha insegnato e mi ha costretto a fare andando a Mottola 3-4 volte a settimana per 3 anni. E quell'ora di andata e quell'ora di ritorno, al posto di sprecarla ad ascoltare la radio e porcherie che vengono trasmesse, ho cominciato a pregare. E prima è stata una preghiera di 10 minuti, poi è diventata una preghiera di un quarto d'ora. poi è diventato un dialogo, poi è diventato un interrogatorio, poi è diventato un stare alla presenza di Dio. E quell'ora volava, e la mia macchina continua ad essere il mio posto segreto. E ora non vado più a Mottola, quindi ogni tanto la prendo e mi costringo ad andare da qualche parte, almeno per un'ora, per sfogarmi con Dio, per chiedere a Lui e soprattutto per chiedere alla potenza dello Spirito Santo di scendere e di guidarmi nelle decisioni da fare. Qual è il tuo posto? Per voi donne, no? Magari quei pochi minuti che dedicate al trucco, perché sono pochi brevi minuti quelli che dedicate al trucco voi, no? E quindi davanti al tuo specchio di casa, no, in quella frazione di secondi che ti rifai le ciglia e ti trucchi, magari quello può essere un momento nel quale, guardandoti allo specchio, dici: Signore, tu mi hai creato in una maniera stupenda, sono bellino, non ho bisogno di questo trucco. A parte gli scherzi, quello può essere il momento nel quale tu interroghi il Signore e cominci ad avere un'abitudine nella tua vita. Il tuo lunedì può cambiare se nel tuo lunedì è coinvolto lo Spirito Santo. Ascoltalo, come si ascolta lo Spirito Santo? Beh, devi sintonizzarti. Lui è molto paziente, noi no. Lui è molto silenzioso a volte. Noi no. Troppe voci, troppi squilli, troppi messaggi, troppi input durante la giornata. E Lui sta lì e sussurra. E sussurra quelle parole che anticipano quei passi che il maligno invece vorrebbe che tu facessi. Non abbiamo tempo, ma c'è un passo nella Bibbia che mi ha colpito. Ed è un passo dove Caino, prima di commettere il peccato che ha commesso nei confronti di Abele, prima di ammazzare suo fratello, sente la voce di Dio che lo avvisa e dice: perché hai il volto abbattuto? Perché sei scoraggiato? Se ti rialzi, tu vincerai, ma se tu continui a stare in questa condizione, il peccato avrà dominio su di te. Quella era la voce dello Spirito Santo che lo stava mettendo in guardia di quella tentazione che da lì a poco avrebbe avuto la meglio su di lui. Oh, se Caino si fosse fermato e avesse detto: è vero, questo è il tuo suggerimento, voglio cambiare, aiutami, potenziami, dammi la possibilità di non cadere, di non andare per quella strada, forse oggi non leggeremmo la storia di un omicidio, di due fratelli, tra i primi umani su questa terra. Qual è l'omicidio che Dio vuole, dal quale Dio ti vuole risparmiare? Qual è la caduta dalla quale Lui ti vuole tirar fuori? È lì che te la sta suggerendo, è lì che te la sta dicendo. E a volte lo dice suggerendoti: non cambiare canale, spegni la televisione. A me lo fa. Cambia luogo, non stare ora lì. Vieni, appartati un attimo, vieni in bagno. Sapete, a volte io vado in bagno anche se non ho bisogno, perché è un posto sicuro. Magari mi trovo in un locale, magari mi trovo tra persone, mi sento minacciato, magari mi sento debole, non so che scelte prendere, vado in bagno. E lì in bagno, per pochi secondi, dico: Spirito Santo, ho bisogno di te. Guidami, fammi uscire da questo luogo con la sicurezza che tu puoi guidarmi. Coinvolgilo, ascoltalo, bramalo, desideralo, perché il Signore ha una vita straordinaria da farti vivere. Per noi più giovani, mi metto in mezzo, hai una vita davanti. Non perdere l'occasione di fare quei passi giusti al momento giusto, guidati dallo Spirito Santo. Per noi più adulti, li metti in mezzo anche con gli adulti. Niente è sprecato, niente è irrimediabile. Se nasci quadrato, puoi diventare tondo. Se la tua situazione è così incastrata e rovinosa e ti senti in prigione, Dio è più grande di quella prigione. Dio è più potente. E non ha importanza che il tuo peccato ha una storia lunga 10 anni, 20 anni. E sei dipendente, sei schiavo da quel vizio, da così tanto tempo che non credi più nella possibilità di un cambiamento. Dio può. Tu non puoi. Tu ci hai provato in 1000 modi diversi e non ci sei riuscito, ma Dio può. Il suo spirito è potente. Il suo spirito è più potente della legge del peccato che dimora nelle tue membra. Lui può. E lui vuole, ti sta chiamando questa vita, questa sera, a una vita straordinaria, a una vita libera. Vogliamo alzarci in piedi? C'è un ultimo verso che voglio leggere con voi e lo conosciamo tutti, è in Galati 5, dice, forse questa sera a conclusione ha ancora più senso per ciascuno di noi, lo comprendiamo meglio quello che Paolo dice. Io dico, camminate secondo lo Spirito, camminate passo dopo passo, scelta dopo scelta, decisione dopo decisione, luogo dopo luogo, giorno dopo giorno, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo spirito, non siete sotto la legge. Siete liberi. Potete camminare, potete correre, potete volare. Quanti questa sera dicono, io desidero di più dello Spirito Santo nella mia vita, io desidero di più della sua guida, io desidero di più dell'ascolto della sua voce, io desidero di più di quella vita straordinaria che lui ha per me. Se tu sei quella persona, alza le tue mani al cielo con me. Io sono il primo qui questa sera che desidero di più di te Padre, di più di te nella tua chiesa, di più di te fra di noi, di più di te nelle nostre vite individuali. Pare tu vedi le nostre mani alzate ed è una resa questa sera, la nostra è una resa per riconoscere prima di tutto che noi non possiamo vivere quella vita straordinaria, che ammettiamo che nelle nostre forze non c'è potenza, che nelle nostre capacità non c'è quella possibilità di vivere una vita straordinaria, ma ammettiamo questa sera che la tua parola dice il vero e noi ci fidiamo della tua parola, noi crediamo che nella potenza del tuo spirito noi possiamo vivere delle vite vittoriose, noi domani possiamo vivere un giorno diverso, noi dopodomani possiamo camminare verso quei territori che tu hai riservato per noi e gridiamo a te, Spirito Santo, scendi, scendi nei nostri cuori, scendi nelle nostre vite. Ti diamo il diritto di parlarci, ti diamo il diritto di guidarci, ti diamo il diritto di operare in noi, ti diamo il diritto di dirci no quando c'è da dire no, di dirci sì quando c'è da dire di sì. Io prego, Spirito Santo, scendi nei tuoi figli, scendi nel cuore e nella vita dei tuoi figli arresi. In questo momento davanti a te, noi desideriamo te, Spirito Santo, niente di più, niente di meno che te, Spirito Santo. E forse questa sera sei qui che dici io non ho mai aperto il mio cuore al Signore. È la prima volta che sento parlare in questa maniera di Gesù, della potenza dello Spirito Santo. E questa sera riconosci il bisogno che hai di una vita diversa. E io questa sera ti voglio dire, una vita diversa è possibile, perché Gesù cambia le vite e ti vuole dare un nuovo destino di vita. E tutto quello che chiede a te questa sera è di riceverlo nel tuo cuore, di dargli il diritto di essere lui guida e padrone di te. Se tu sei questa persona, vorrei invitare tutti noi a chiudere i nostri occhi, a abbassare il nostro capo. E se tu sei questa persona, ti chiedo di alzare la tua mano. E io voglio pregare per te. Questa mano che alzi, non la alzi per me, la alzi davanti a Dio e lo fai perché ammetti il bisogno che hai di Lui. Grazie, Grazie, vedo tantissime mani che si alzano, grazie. Grazie per questa resa, grazie per questa scelta, grazie per questo coraggio. Vuoi ripetere con me questa preghiera? Lo vogliamo fare tutti insieme, Chiesa, appoggiando queste persone che scelgono questa sera di ricevere Gesù Cristo. Ripetete insieme: Signore Gesù, io ti do il diritto di guidare la mia vita. Ti chiedo perdono per ogni mio peccato e ti prego di rinnovare completamente il mio cuore, completamente le mie giornate, e che io possa vivere una vita nuova per mezzo tuo, Cristo Gesù. Amen. Amen. Amen. Alleluia.